Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. Buongiorno, questo è Ferry Boat e io sono Enzo Argante, il traghettatore, colui che vi porta a conoscere i meandri segreti e non della nuova economia sociale, della green economy o come la vogliamo chiamare. Questa puntata è dedicata all'edilizia, alla nuova edilizia, l'edilizia cosiddetta sostenibile, altri la chiamano biedilizia, ma la sostanza non cambia. Un'edilizia cioè rispettosa del risparmio energetico, un'edilizia che ha dal suo contributo al contenimento del problema dell'inquinamento e ovviamente di grande attualità, un'edilizia rigorosamente antisismica in un paese che ha un problema di base da questo punto di vista. Il primo ospite, la prima persona a cui chiediamo di aiutarci in questo breve viaggio verso l'edilizia sostenibile è il presidente di Assimpiedi Lance. Buongiorno, presidente Claudio De Albertis. Buongiorno. Che abbiamo coinvolto perché non a caso comincia, abbiamo un suo intervento con una frase che ci ha colpito molto, che la sfida della sostenibilità ormai è lanciata e nel settore delle costruzioni chi non lo capisce è tagliato fuori dal mercato. Questo lei l'ha detto poche settimane fa ed è effettivamente un'affermazione molto importante. Ma sì, sicuramente ne siamo perfettamente convinti, perché oramai chi si affaccia al mercato, chi vuole per esempio comprare una casa, è perfettamente consapevole di chiedere determinate prestazioni di questa casa. Ormai c'è un'attenzione non solo al prezzo d'acquisto e solo al prezzo d'acquisto, ma oramai chiunque appunto si avvicina ad una casa chiede quali sono le prestazioni anche nel tempo. Un'edilizia sostenibile vuol dire sostanzialmente essere attenti al ciclo di vita di un edificio, quindi anche ai suoi costi di esercizio, ai suoi costi di manutenzione e anche alle prestazioni. Nel suo complesso, efficienza energetica, ma anche inquinamento outdoor, cioè fuori casa, inquinamento indoor, impatto sul contesto, ecco, sono tutte questioni fondamentali in cui la cultura diffusa sta prendendo piede. È tanto più importante questa sua affermazione in quanto lei è presidente di Assimpredil, che in due battute la prego ci aiuti a capire chi rappresenta. Assimpredil è l'associazione delle imprese edili delle province di Milano, Monza e Lodi, è la più grande associazione dei costruttori in Italia, delle associazioni provinciali, e rappresenta le aziende industriali, quindi le aziende più grosse, quelle che io spero capiscano questo messaggio, anzi sono convinto che lo capiscono. Si tratta sostanzialmente di affermare un vero e proprio ruolo industriale del settore. Il nostro deve diventare a tutti gli effetti un prodotto industriale, quindi con una data di fabbricazione ed una data in cui probabilmente deve anche uscire dal mercato, un prodotto accompagnato da un libretto di manutenzione, da una serie di prodotti come se fosse un'automobile. Ecco, lei si è rivolto alle imprese che si trovano improvvisamente, perché in effetti questo cambiamento sta avvenendo in un arco di tempo molto ristretto, a dover modificare comportamenti, progettazioni, quindi anche delle professionalità nuove, quindi gli imprenditori sono pronti a raccogliere la sua sfida alla sostenibilità? Ma io credo che siano abbastanza pronti, anche se il percorso è ancora lungo da fare. Lei giustamente ha posto l'accento sulle nuove professionalità, su un nuovo management, su modelli organizzativi delle aziende diverse. Noi abbiamo anche un problema di essere tanti, probabilmente troppi. Iscritte alle Camere di Commercio in Italia ci sono 620.000 aziende, sono veramente dei numeri spaventosi. C'è bisogno quindi di una selezione alla base. Oggi per fare l'impresa di costruzione nel settore privato basta solo una carta d'identità e un codice fiscale. Ecco, questo credo che non sia più possibile, perché le responsabilità che si accompagnano al mestiere di costruttore sono troppe, perché non ci sia invece una patente che affermi proprio quelle capacità, quelle professionalità e anche quelle, come dire, struttura economico-organizzativa degna di un'impresa industriale. E l'abbiamo visto bene purtroppo anche in Abruzzo, no? Beh, sicuramente adesso, al di là delle singole responsabilità che non spetta a me, sicuramente però poter dire che non solo nell'ambito dei lavori pubblici ma anche nei lavori privati le imprese hanno una patente per esercitare l'attività, credo che sia una cosa fondamentale. Un'ultima domanda, ci vogliono nuove professionalità, sicuramente anche una sensibilità che fortunatamente a noi latini non manca, poi ci sono anche le materie prime che sono diverse, da questo punto di vista le altre imprese stanno seguendo, diciamo, questa tendenza, le imprese di produzione di prodotti base. Direi che anzi, diciamo che nella filiera delle costruzioni i produttori di materiali stanno spingendosi, forse sono anche più avanti delle nostre imprese di costruzioni, però non va dimenticato che le imprese di costruzioni sono centrali perché sono gli assemblatori di questi materiali, quindi quello che mi auguro è che ci sia attenzione alle prestazioni del prodotto finito e non solo quelle alle prestazioni dei propri componenti. Grazie Presidente, noi continuiamo il nostro viaggio dopo che abbiamo in qualche modo descritto il mercato con le sue enormi potenzialità, perché è ovvio che quello che avete sentito dal Presidente di Assimpredi Lance è importante dal punto di vista della sicurezza, del rispetto ambientale, ma è soprattutto importante anche dal punto di vista occupazionale, quindi la nuova economia, questa economia sociale che avanza in maniera assolutamente capillare. Adesso cerchiamo di capire con l'aiuto di Erminio Redaelli, che è Presidente dell'Istituto di Bioarchitettura, anche che cos'è una struttura bioarchitettura, che com'è fatta. Io leggo appunti presi così alla rinfusa, parliamo sì di antisismico ma anche di biofitodepurazione, riuso dell'acqua, ovviamente energie rinnovabili, illuminazione naturale, ci sono tanti termini, alcuni anche veramente originali, che si agganciano al concetto di bioarchitettura. Presidente Redaelli, ce la riesce a spiegarcela? Buongiorno intanto. Buongiorno a tutti. Riesce a spiegarci, e dopo magari le chiediamo cos'è il suo istituto, ma intanto un concetto base della bioarchitettura che possa essere comprensibile a tutti? Certo, allora, in sostanza la bioarchitettura non è che sia un nuovo modello formale o comunque una sommatoria di tecnologie verdi, ma è proprio una visione parolona olistica dell'architettura che obbliga a confrontarsi con la specifica realtà, cioè a scoprire con rinnovata sensibilità la continuità sia con la storia, con le tradizioni, con il paesaggio, in modo da affrontare il modo di costruire con una nuova consapevolezza della ecosostenibilità e della biocompatibilità. In parole povere, costruire con sistemi di bioarchitettura non vuol dire fare solo, per esempio, efficienza energetica, ma vuol dire creare un organismo per l'abitare che dia benessere psicofisico a coloro che ci abitano. Sarebbe molto restrittivo se noi parlassimo esclusivamente di efficienza energetica. Io normalmente faccio un esempio molto semplice e chiaro. Se io dovessi costruirmi la casa come fosse una scatola di polistirolo, avrei praticamente un'efficienza energetica massima. Ma chi di noi vivrebbe in una scatola di polistirolo? Efficienza energetica massima perché il polistirolo impedisce il freddo o il caldo di entrare, in questo senso. Chiaro. Cioè, voglio dire, è utopia, no? Però quello che noi intendiamo quando parliamo di bioarchitettura è che l'organismo edilizio ha tanti legami con non solo con i materiali, ma con il luogo, con la storia, con le tradizioni, con eccetera eccetera, tale per cui la sommatoria di tutto questo porta ad avere un organismo edilizio efficiente sia dal punto di vista energetico che dal punto di vista di benessere che dona all'abitante. Certo, questo è magari più facile, non so, in Maremma piuttosto che in Umbria, se però andiamo nelle zone intensamente abitate come la Lombardia, piuttosto che come quasi tutti i grandi centri, è un po' difficile riuscire a trovare questa armonia fra il costruito e il territorio, è un po' più difficile, diciamo. È un po' più difficile, ma il progettista che dovrebbe essere preparato a questo, deve trovare le soluzioni adeguate anche in situazioni estremamente difficili, ed è possibile trovarle. Grazie Presidente. Due battute sull'Istituto di Bioarchitettura? è velocissimo. L'Istituto Nazionale di Bioarchitettura è un istituto che copre praticamente tutta Italia, le braccia operative dell'istituto sono le sezioni provinciali, circa 50 in tutta Italia. È un'associazione no profit che porta avanti questi concetti e promuove sensibilità, fa convegni, promuove Chiaro. Anche modalità effettive di lavoro sotto questi profili. Grazie Presidente Redaelli. Al suo istituto di bioarchitettura parlava il Presidente di progettisti, di coloro a cui viene demandata l'intelligenza nel rapporto fra l'edificio, comunque il territorio, l'armonia eccetera, tutte le cose che avete sentito. Certamente il ruolo del progettista è un ruolo fondamentale. Noi quindi adesso passiamo a parlare con un progettista, ma non uno qualsiasi, bensì il progettista, l'architetto Mario Cucinella, che per motivi che ci spiegherà lui è diventato in questo momento il primus inter pares, una sorta di eccellenza. Architetto, così lei in tutto il mondo è diventato famoso per la sua casa 100K. Sì, buongiorno. Buongiorno. Beh sì, diciamo che abbiamo cercato più che altro di interpretare un bisogno, no? Ma quindi io penso sempre che un architetto debba rispondere a delle domande, ma se queste domande non le fanno ce le dobbiamo in qualche modo costruire, no? Ha un bisogno, dice lei. Ecco, lei ha progettato una sorta di prototipo, mi aiuti a capire se ho intuito bene, che è una casa chiamata 100K perché costa 100.000 euro per 100 metri quadrati, che corrisponde un po' a questi criteri bio. È così? Sì, diciamo che abbiamo combinato tre temi che sono intorno al tema dell'abitare, no? Uno è il tema del costo, quindi c'è la possibilità di accedere all'acquisto di una casa. L'altro è un tema più di natura sociologica, cioè il desiderio, che cosa desiderano gli italiani, le famiglie italiane, come desiderano abitare. E l'altro è la combinazione con i temi ambientali, quindi una casa che consuma zero energia, che produce l'energia che consuma. E siccome è virtuosa, quindi è ben costruita, ben progettata, produce più energia di quella di cui ha bisogno e la vende alla rete, quindi crea anche un meccanismo interessante dal punto di vista sociale, che è quello di creare dei microrediti. L'innovazione della tecnologia che può portare un beneficio di questa natura mi sembra una grande opportunità che oggi è sul mercato. Ecco, non è che non abbiamo inventato una cosa che non c'è, abbiamo lavorato con gli elementi che esistono sul mercato. Anche se non ho capito male, c'è alla base anche un prodotto innovativo, quello degli terciamenti, mi pare così? Sì, abbiamo lavorato con una grande azienda proprio per lavorare su un prodotto tradizionale come quello del cemento, che però viene reinterpretato sotto una forma diversa, quindi un cemento più leggero, quindi un edificio meno pesante, con meno materiale, ed è già un materiale isolante, quindi contrariamente a quanto si fa oggi, che si usa il cemento, poi dopo deve essere rivestito, isolato con un pannello meno, questo è un materiale che contiene già il suo isolamento, quindi anche lì c'è una quota a parte di innovazione nell'uso di una materia tradizionale, questo grazie anche ovviamente a una collaborazione tecnica con Italcementi. Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. Ecco, siamo tornati a Ferry Boat, il viaggio verso l'economia sociale, e stavamo parlando con l'architetto Mario Cucinella, progettista. Ecco, ci sono della casa 100K, che non solo è una casa costruita con criteri bioarchitettura, ma addirittura produce più energia della necessaria e quindi in qualche modo si ammortizza il costo, l'investimento, che peraltro è molto contenuto, di 100.000 euro, perché si rivende l'energia. Esistono, architetto, esistono già, c'è solo un prototipo o ci sono già delle case 100K costruite, dove? No, adesso le stiamo facendo questo prototipo perché stiamo mettendo insieme tutti i pezzi di tutte le tecnologie. Abbiamo un accordo con il comune di Settimo Torinese, perché è il comune di Settimo che vorrebbe realizzare le prime case a 100.000 euro, quindi le vedremo credo l'anno prossimo, nella primavera dell'anno prossimo. Però era molto importante che fosse anche l'attore pubblico, cioè il soggetto pubblico diventa di nuovo attore sul piano della casa, sulla costruzione di case sociali, e quindi in qualche modo l'idea è quella proprio di dargli un oggetto, uno strumento per rimettere in moto una macchina molto importante, che è quella della casa sociale. No? Adesso la casa sociale è un tema molto vasto, ha purtroppo anche delle connotazioni negative. È negativa, è vero, sì. Invece io credo che dovremmo chiamarla una casa per tutti nel modo più semplice in un mercato in cui c'è sia la casa per chi ha molti quattrini da comprare, c'è anche la casa per chi i quattrini ha meno, quindi ecco, in questo panorama vasto anche in questo momento manca un segmento che è proprio quello della casa. Per esempio io non penso solo al tema dell'immigrazione, ma anche al tema dei giovani. C'è una giovane coppia che oggi guadagna poco perché inizia a lavorare, prende una casa che gli permette di poter abitare, di poter radicarsi anche un po' sul territorio. Cioè, il tema della casa ha dei, come dire, dei contenuti anche molto legati alla vita sociale nella propria città, nel proprio circondario. Ecco, io mi sono chiesto, architetto, fuori dall'imbarazzo dell'autocitarsi, perché lei ha tutto questo successo che è difficile da spiegare in pochi minuti. Adesso lo capisco un po' meglio, perché la sua casa 100K non è solo bioarchitettura, materiali non inquinanti o energia rinnovabile. La sua casa 100K effettivamente è anche una risposta ad una domanda sociale che in questo paese è effettivamente molto alta. Assolutamente, anche perché guarda, il tema cruciale dell'energia, cioè il tema che come si dice adesso nei linguaggi più correnti, anche quelli più giornalistici, quando si parla di sostenibilità, è una parola che ha dentro di sé altri contenuti, non è solo un problema tecnico, energetico di kilowatt, ma è una grande opportunità di natura sociale, perché il tema oggi, attraverso l'uso di tecnologie, di poter permettere alle persone di produrre la propria energia, di consumarla e in questo caso di fare anche un'azione di risparmio, no? Perché io se la produco consumo quello di cui ho bisogno, apre uno scenario tutto nuovo anche nella politica energetica, che è un problema molto molto serio. Quindi se vuole partiamo da un semino come quella del nucleo familiare, per invece affrontare un tema più di natura sociale molto vasto. Poi nel nostro paese c'è anche un gran bisogno di diversità, ecco, non c'è soltanto un mercato unico, giusto, reale, che è quello speculativo, ci vogliono anche altri mercati, ecco, perché la stratificazione poi della società è fatta per segmenti molto diversi. Ecco, io credo che dobbiamo, in questo, parlando proprio di ambiente, affrontare il tema proprio per dare una risposta a tutti questi livelli. Ecco, questo credo sia la grande, anche il fatto che poi abbia interessato così tanta gente. Certo, ed è un altro dei motivi da cui spesso parliamo, ci riferiamo, che questa crisi sta indubbiamente accelerando alcune riflessioni critiche sui sistemi che abbiamo gestito fino ad oggi. E come vedete, grazie all'architetto Mario Cucinella, e come vedete ancora una volta si conferma come la crisi sia in realtà negativa sotto molti punti di vista, ma anche una grande opportunità di rimettere in discussione sistemi, standard e schemi che sono evidentemente saltati. Forse in una battuta, e ci rivolgiamo al professor Tonino Paris, che è direttore di ITER, adesso ci spiegherà lui al design e nuove tecnologie della Sapienza, e forse da questo punto di vista sono molti gli elementi che vengono messi in discussione, con una caratteristica di base che non c'è una lettura verticale, parliamo di trombe dell'ascensore, ma c'è sempre una lettura orizzontale ormai dell'aspetto della vivibilità del territorio, e quindi, come diceva poco fa il presidente del Istituto di Bioarchitettura, olistica, cioè orizzontale, che coinvolge tutti gli elementi. Abbiamo visto anche con Cucinella, non è solo questione di casa, di rapporto col territorio, e prima forse si era un po' ingessati. Professore, buongiorno. Sì, buongiorno. Certamente se si pensa al flusso dei prodotti artificiali che ci circonda, e se si pensa che ciascun prodotto, per essere fabbricato, consuma energie, per essere utilizzato consuma energie, per essere dismesso quando conclude il suo ciclo di vita consuma energia, è evidente, diciamo, che una riflessione sui prodotti che ci circondano, da quelli all'alta tecnologia a quelli anche a più bassa tecnologia, come una sedia di legno, chiaramente pongono il problema del rapporto con l'energia e con l'ambiente. Ecco, l'istituto di cui lei dirige, Itaca, che peraltro ha questo nome molto evocativo, è in realtà difficile da capire, perché sono tanti gli elementi che vengono associati nella definizione: l'art, il design, le nuove tecnologie, l'edilizia. Sì, l'acronimo di Itaca è Industrial Design, Tecnologia dell'Architettura e Cultura dell'Ambiente. Si tratta di un che è appunto quello di cui stiamo parlando, no? Certo, si tratta di un dipartimento che al centro dei suoi interessi ha sempre avuto la tecnologia, l'innovazione tecnologica, ed è evidente che l'innovazione tecnologica riguarda tanto gli oggetti di produzione industriale, quanto l'architettura, quanto appunto l'intero sistema antropizzato, diciamo così. Quindi noi all'interno siamo organizzati in 3 sezioni e ciascuna delle sezioni copre uno degli aspetti che è descritto nell'acronimo, mettendo, diciamo, naturalmente a profitto di volta in volta le relazioni fra l'una sezione e l'altra, che sono, direi, quasi inevitabili, soprattutto quando si affrontano i problemi di rapporto con l'ambiente, con l'impatto ambientale. Nel mio caso, diciamo che appunto io mi occupo prevalentemente della formazione, della sperimentazione nel settore del design, e lì il problema ovviamente è legato alla, appunto, a quel che dicevo prima: i prodotti, tanto più nella loro fabbricazione, consumano poca energia, tanto più se ne recupera integralmente almeno il materiale quando si dismettono, tanto più si consuma poca energia quando si usano, e tanto più, fuori di schemi ideologici, ma come dire, attraverso un'attività pragmatica corretta, si dà luogo a prodotti che rispetto a questa tematica rispondono al meglio. Grazie professor Paris. Avete sentito, lo ringraziamo, direttore di Itaca, avete sentito ogni prodotto, sono argomenti inusuali, non ce ne rendiamo forse conto nella nostra frenesia consumistica, ma tutto quello che consumiamo ha un costo anche nell'essere prodotto, va da sé, di energetico. C'è un altro aspetto, oltre al costo energetico, su cui c'è forse un colpo di sonno, come dire, globale, facciamo tutti finta di non renderci conto che c'è un problema possibile, che prima o poi verrà fuori anche in maniera pesante, che è quello dell'acqua. L'acqua non è un bene, come dire, inesauribile, è un bene invece che sempre più diventa prezioso, e sempre più sostenibilità vuol dire risparmiare anche l'acqua, perché l'acqua serve per esempio anche a costruire una penna, a costruire un paio di scarpe, e si fa un grande uso, un grande sciupio dell'acqua. Roberto Marcatti è docente del Politecnico di Milano ed è fautore della progettazione dell'acqua. L'acqua in realtà siamo abituati a immaginare come un bene, come dire, una commodity, direbbero gli inglesi, e lì c'è sempre, ci sarà sempre. Non è così, l'acqua va invece gestita come una risorsa preziosa. Qual è? Perché i tempi che si avvicinano pretendono un'attenzione nei confronti di questo bene preziosissimo, e lei è docente Politecnico di Milano e in qualche modo un progettista dell'acqua. Sì, sì, è vero, ma io è da molti anni che studio questa risorsa e mi sono impegnato nel mio campo pensando che il design fosse uno strumento come l'architettura e la grafica per poter far capire a tutti che l'acqua non è più, come ci insegnavano a scuola, una risorsa inesauribile, ma ahimè è una risorsa in esaurimento per una serie di fattori, ma comunque questo è il dato di fatto. E quindi io qua ho scritto negli appunti water design per un uso consapevole della risorsa dell'acqua. Quindi che cosa vuol dire water design? Water design vuol dire fondamentalmente che i designer o gli architetti hanno una grossa responsabilità nei confronti dell'ambiente e in particolar modo dell'acqua, perché fondamentalmente tra l'altro gli italiani sono i terzi al mondo per l'uso e lo sfruttamento dell'acqua. Consumiamo una media di circa 320 litri d'acqua al giorno pro capite, prima di noi solo gli americani e i canadesi. E non è un primato di cui vantarsi, giusto? No, non è un primato infatti da cui vantarsi, come non è un primato di cui vantarsi il fatto che in Italia esistono più di 280-300 marchi di acqua minerale imbottita. Unici al mondo in questo, però penso che appunto la nostra categoria, cioè la cultura del progetto, i professionisti potrebbero fare molto, molto di più che non limitarsi a disegnare una nuova bottiglia dell'acqua. Ecco, per intenderci, per capirci e farci capire, in un edificio, in una costruzione non è solo questione di tubi, non metti i tubi là dentro e l'acqua passa da lì, c'è qualcosa di più, c'è qualcosa di meglio che si può fare nel gestire l'acqua rispetto per esempio a un edificio abitativo? Dovrebbe fare in modo che l'acqua riciclata potesse andare in delle cisterne come ahimè i romani facevano e poterla usare per una serie di servizi comuni dei vari condomini. Si potrebbe far sì un obbligo di legge per cui chi ristruttura la casa potrebbe usare, ed esistono di già dei rubinetti che risparmiano il 40% d'acqua, si potrebbe fare in modo che sia obbligo avere la cassetta, quella per intenderci quando si va in bagno, con la doppia mandata, si potrebbe fare tutta una serie di, chiamiamoli, accorgimenti, sia negli edifici nuovi o da ristrutturare, sia nei prodotti che usiamo tutti i giorni, affinché ci sia la possibilità di avere una coscienza e un'etica diversa nei confronti di questa risorsa. Le faccio un esempio banale, però che rende l'idea. Qualsiasi cosa noi produciamo oggi è comunque fatto con una grande percentuale d'acqua. Forse ragionare con questa cosa e far sì che questi nuovi oggetti e prodotti, e quindi anche una coscienza diversa degli imprenditori, della parte industriale, faccia uno sforzo in un momento anche di crisi economica internazionale per uno studio e un approccio diverso sulle risorse, non sarebbe male. Ed è un po', come posso dire, anche il tema per cui da questo progetto è nata anche un'associazione no profit che si chiama appunto H2O, Nuovi Scenari per la Sopravvivenza, di cui il presidente è la dottoressa Cinzia Concari, e condivide questo grande progetto di sensibilizzazione internazionale. Grazie Roberto Marcatti, che salutiamo. Ecco, sull'acqua potremmo provare per una volta ad anticipare i tempi e non aspettare la solita emergenza per affrontare le questioni che ha appena sollevato Roberto Marcatti, ma una sana prevenzione, visto che dobbiamo ristrutturare il nostro pensiero sulla gestione abitativa, infiliamoci dentro un'attenzione specifica anche per i problemi dell'acqua. Questo è Ferribot e io sono Enzo Argante, il traghettatore. Abbiamo fatto questo viaggio verso l'economia sociale, questa volta dedicato all'edilizia sostenibile. A presto.